известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. The governor's brother reached out to me, as he'd done over the years, to do fundraising when he's made a call. Questo uomo, questo suono della voce, ne sentiremo già la mancanza, secondo me, a partire da domani, perché oggi si è dimesso. You know the real Roland. I am the real Roland. Volete sapere chi è il vero Roland? Dice: io sono il vero Roland. Roland Burris, alla anagrafe, quel vecchio senatore, peraltro unico senatore nero dal momento che Barack Obama ha preso la strada della Casa Bianca. Come sapete, il Senato americano è sempre stato, non dico off limits, ma insomma qualcosa di molto simile per gli afroamericani. Non a caso alla fine si era proceduto per mano di un signore che adesso si chiama soltanto signore, Rod Blagojevich, ma che quando l'ha fatto era ancora governatore dell'Illinois, a sostituire Barack Obama con un altro afroamericano, per l'appunto il veteranissimo della politica dello stato dell'Illinois, uno stato dove la politica spesso ha un cattivo odore, Roland Burris, che adesso si è dimesso e se n'è andato perché ha ammesso che anche lui a sua volta, insomma, non è rimasto completamente con le mani pulite per quello che riguardava questi famosi contatti un po' luciferini con Rod Blagojevich, a sua volta, come ricorderete, qualche giorno fa colpito da impeachment, in pratica cacciato via con sdegno e ignominia dalla poltrona di governatore dell'Illinois. Tra l'altro non potrà mai più ricoprire alcuna carica pubblica, il segno della colpa è su di lui. Però Roland Burris alla fine, anche se un po' per il rotto della cuffia, passando dalla porta di servizio, era riuscito a entrare al Senato nel momento, nell'euforia della inaugurazione di Barack Obama. Si è detto: ma sì, in fondo può andare, è una brava persona, insomma. Aveva, dopo un paio di tentativi andati a male, la prima volta non l'hanno fatto letteralmente entrare, l'hanno fermato sulla porta, poi le firmette sulle carte le avevano messe. Purtroppo in America certe inchieste vanno avanti, ripeto, purtroppo in America certe inchieste vanno avanti. È andata avanti anche quella che riguardava Roland Burris, riguardo al suo tentativo di raccogliere fondi su richiesta del fratello di Rod Blagojevich, una storia assurda. È venuto fuori che lui aveva nascosto tutto questo nel corso del processo di impeachment. È venuto fuori che la posizione, insomma, di Roland Burris era indifendibile, e alla fine si è dimesso, anche se, come avete sentito, anche lui, ma del resto Blagojevich ha fatto lo stesso, se n'è andato dicendo: sentirete parlare di me, no? Un po' tipo Conte di Montecristo, tornerò ricco e spietato. Roland Burris l'ha fatto invece in modo un po' più così ostinato, anche con questo accento che fa molto soul food, fa molto non so, commedia dei Robinson, insomma. E in un certo senso il suo brevissimo momento di gloria è già trascorso. Tutta questa storia, non c'è niente da fare, che purtroppo continuerà a marciare, o forse per fortuna continuerà a marciare. C'è la sensazione che da qualche parte possa finire per toccare, no? Lo staff di Barack Obama, che continua a glissare sull'argomento. È stato sicuramente un episodio, diciamo, sfortunato, diciamo così. Per ora le priorità sono altre. Per ora il presidente Obama comincia i suoi primi rapporti internazionali. Ha fatto ieri la sua spedizione, la prima spedizione all'estero della durata della bellezza di 6 ore in Canada. È andato e tornato, ha avviato alcune relazioni, si è portato un super staff. Ma poi Barack Obama, si sa, ama dormire nel suo letto, e quindi la sera era già a casa da Michelle, ha salutato le bambine e ha concluso rapidamente la sua prima missione internazionale. Di tutto questo però parleremo più tardi, perché oggi abbiamo una successione di ospiti sugli scenari internazionali particolarmente interessante. I wake up knowing that trouble is always inside, and I know that. notizia è che gli americani, nel corso di un incontro tra ministri della difesa della NATO riuniti a Cracovia per due giorni di discussione incentrati essenzialmente sulla questione dell'Afghanistan, gli americani hanno fatto sapere di essere pronti ad aumentare il loro impegno appunto in Afghanistan, però c'è un però, che si attendono, parole di Robert Gates, segretario della difesa americano, si attendono che anche i loro alleati, Italia inclusa, facciano altrettanto. Il messaggio è stato molto chiaro, ha detto Gates. Il messaggio è che questa amministrazione, questa nuova amministrazione è pronta a prendere impegni aggiuntivi in Afghanistan, ma c'è ovviamente la chiara aspettativa che gli alleati facciano anche loro di più. E dunque abbiamo un ospite in studio, gentilmente ci è venuta a trovare qua nel nostro studio di Roma, Antonella Deledda, che è la presidente di Argo, un think tank di analisi e ricerche geopolitiche sull'Oriente, con una attenzione specifica per il subcontinente indiano. Tra l'altro c'è un bel sito, ricco sito, che vi invito ad andare a visitare. L'indirizzo è www.argooriente.it. Antonella, ex funzionario parlamentare con esperienza peraltro diretta in Afghanistan nonché Uzbekistan, insegna oggi diritto pubblico comparato alla LUIS. Mi sembra di capire, buon pomeriggio Antonella, mi sembra di capire che l'interesse, la passione, posso dire anche l'amore per l'Afghanistan fa parte della tua vita, è così? Sicuramente sì. Chi conosce l'Afghanistan in genere ne rimane innamorato. Perché? Come è cominciata? È cominciata con un interesse accademico, cioè seguendo la formazione della Costituzione afghana nel 2003-2004, ma ancora prima è cominciata dall'Uzbekistan, perché l'Uzbekistan è un paese confinante con l'Afghanistan che risente pesantemente del flusso di droga che viene prodotta in Afghanistan. Certo. E non solo, ma negli anni pre-2001 risentiva anche della minaccia islamica che la Russia e i paesi ex sovietici dell'Asia centrale, tra cui l'Uzbekistan, percepivano molto forte. Si sapeva bene che l'alleanza del Nord, che teneva, che era rimasta l'unica barriera contro i talebani e che era sostenuta non a caso dalla Russia e dai paesi satelliti, era l'ultima barriera. Si sapeva che i talebani avevano intenzione di sfondare verso Nord. E da lì è nata la passione. Dunque, questi scenari di cui appunto ci sono aggiornamenti nelle ultime ore, prima di tutto fanno venire voglia di farti una domanda di questo genere. Questo impegno costante, lungo, anche pagato un caro prezzo degli americani in Afghanistan, al quale finalmente la nuova amministrazione, una volta insediata, sta dando poi una nuova direzione, forse anche una nuova energia, però mi sembra abbia delle caratteristiche tipiche delle occupazioni americane, molto bravi ad arrivare a risolvere inizialmente i problemi, estremamente invece problematici poi nel rendere l'occupazione, come dire, attiva, no? Costruttiva, e con quest'aria da lavoro non finito, se me la passi, che è quasi una costante di operazioni di questo genere. È così ed è da qui che si riparte, cioè una cosa lasciata un po' a metà, forse anche, anzi sicuramente, per l'apertura di nuovi fronti. Cosa mi puoi dire al riguardo? Ma sicuramente diciamo che si è andati in Afghanistan senza una strategia chiara, con un ruolo preponderante della presenza militare, cioè dagli Stati Uniti a tutti gli altri paesi contributori di truppe. ISAF si è dedicato circa il 90% delle risorse al versante militare e solo le briciole a quello civile. Si è andati a combattere. Si è andati a combattere e si è andati in un'operazione che inizialmente era di peacekeeping e molto presto si è trasformata, soprattutto nel corso del 2006, in una vera e propria guerra. Il problema è che l'Afghanistan è un paese molto particolare, un paese che nella sua storia non è mai stato colonizzato e non ha intenzione di esserlo adesso. È il paese dove sono stati sconfitti gli inglesi, certo, per tre volte, e dove si è giocata una delle battaglie più importanti della caduta della, dell'Unione Sovietica. Tra l'altro in questa relazione seminariale di qualche giorno fa tu scrivi in sostanza che l'Afghanistan è un posto dove si va a combattere, no? Dove ci si va a scontrare, è un teatro di guerra dove vengono... Sì. Purtroppo sì, però ecco, io ho qui un dato interessante, è uscito proprio in questi giorni, che racconta di come dal 2005 ad oggi la simpatia del popolo afghano per le truppe internazionali, ed in particolare quelle americane, è drammaticamente calata. Certo. Ecco, ti faccio vedere questo grafico che rende molto bene l'idea. Una diagonale verso il basso. Ecco, nel senso che io credo, e mi piace pensare che lo creda anche Obama, che si è trascurato troppo il lato dei rapporti civili, il famoso conquistare le menti e i cuori del popolo afghano, e si è trascurato troppo il lato diplomatico e politico dell'intervento per dare troppa luce a quello militare. Guarda, esce adesso un'agenzia che riporta proprio il parere di Obama sulla questione afghana. Ci sarebbe la decisione è importante, dice Obama, in vista delle prossime elezioni presidenziali e dimostra il sostegno degli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo e l'appoggio nei confronti del governo afghano. C'è un appuntamento elettorale, è uno snodo importante, decisivo, vero? Molto importante. Il 20 agosto si svolgeranno le elezioni presidenziali e dei consigli provinciali. Sappiamo che tra Obama e Karzai non c'è un buon feeling. Obama ha telefonato perché a Karzai. Non c'è un buon feeling? Ma dunque, diciamo che i consiglieri di Obama probabilmente nelle settimane scorse, ancora prima dell'insediamento, avevano sollevato tutta una serie di dubbi circa la presidenza Karzai, la sua capacità di diciamo fare uscire il paese da certe logiche, soprattutto logiche di illegalità, che sono quelle connesse con il narcotraffico, che non dimentichiamo è arrivato a livelli mai visti prima in Afghanistan, ma anche della corruzione legata o meno al narcotraffico. E comunque... Ma come dovrebbe essere la figura, diciamo, virtuale più che altro di un governante operativo afghano sul territorio, come dire, perché le critiche espresse sono sicuramente tangibili, ma probabilmente Karzai ha anche a che fare con una realtà di fatto, no? Sì, ma poi Karzai ha anche a che fare con degli alleati internazionali che sono stati i primi a muovere le cose in un certo modo, perché per esempio lì la questione molto importante è quella del ritorno al potere dopo i talebani che li avevano fatti fuori. Con Karzai, con l'intervento internazionale di questa fase, sono tornati al potere i signori della guerra, che sono profondamente invisi al popolo afghano, e quindi con loro è tornato un concetto di impunità, e con questo concetto di impunità è tornato tutto il resto, quindi diventa molto facile far passare altre operazioni. Si sa benissimo che ci sono ministri, molti parlamentari, molti funzionari di alto livello che sono legati a doppio filo al narcotraffico. Puoi fare per concludere, puoi farci uno scenario nel tuo articolo intitolato Un bilancio dei 7 anni dell'intervento internazionale? Insomma, sono parecchie le ombre messe in evidenza, ma possiamo fare uno scenario di quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi, magari coinvolgendo anche, al di là della, appunto, di questa spinta offerta dagli americani, ma coinvolgendo anche il ruolo italiano nella presenza in Afghanistan e nell'eventuale incremento di questa presenza? Ma dunque, tanto per cominciare, ci sono brutte previsioni per i prossimi mesi. Già da un po' si prevede che appunto nella fase di passaggio del cambio di presidenza americano e anche nell'attesa che la nuova amministrazione consolidi una strategia, perché è in corso in questo momento un ripensamento complessivo dell'impegno americano in Afghanistan. Si sapeva che lì ci sarebbe stata un'offensiva molto pesante, e così è. Abbiamo visto per esempio gli attacchi dell'11 febbraio. Sono cresciuti tutti gli indicatori. Tutti, no? Gli indicatori, circa il 30% di attacchi terroristici, di morti, eccetera, eccetera. Ma insomma, l'attacco di Kabul dell'11 febbraio, benché del tutto prevedibile, mette in evidenza proprio le capacità militari che hanno raggiunto i talebani, benché ci sia stata anche una risposta, e questo non è stato detto sufficientemente, una risposta molto buona degli apparati di sicurezza afghani, perché quelli internazionali non sono intervenuti. Quindi sicuramente adesso è un momento in cui, in vista delle elezioni presidenziali, e appunto gli americani in prima persona e chiedendo ai propri partner stanno consolidando la propria presenza. Entro le elezioni sicuramente il contingente americano passerà dai circa 33.000 di oggi a circa 50.000, considerando i 17.000 che Obama ha appena approvato. L'Italia, sappiamo che la Russia ha già detto, ha già parlato di una disponibilità di inviare altri 800 soldati. Però sono specifico, insomma, no? Mi sembra capire che l'aiuto sia un po' a termine, no? Un intervento. Per le elezioni, in vista delle elezioni, esatto. Ma poi non c'è nulla di più perpetuo del provvisorio, nel senso che una volta che vanno è difficile. Ma io credo che l'Italia sicuramente dovrà fare la sua parte, però ecco, possibilmente non solo sul piano militare. Ecco, io mi auguro che se c'è un ripensamento complessivo sia anche lì che l'Italia faccia la propria parte, perché il popolo afghano, secondo me, è abbastanza stanco di quello che è successo e ha voglia di vedere un intervento più complessivo. Per Antonella, per concludere, sono arrivati due messaggi via SMS che in realtà dicono la stessa cosa, ti provo a coinvolgere per rispondere. Uno dice: ora per coerenza mi aspetto che la sinistra italiana inizi a dare del guerrafondaio a Obama. E l'altro dice: ma i pacifisti entusiasti del presidente Pop Obama, che ne pensano dell'incremento delle truppe? Insomma, la polemica che si solleva subito mi sembra sia la stessa. Una volta alla Casa Bianca, anche Obama deve affrontare il problema. Per affrontare i problemi, il problema di mandare le truppe, l'Afghanistan minaccia di essere un altro Afghanistan, non so come dire. Un altro Vietnam. Sì, ma certamente un collettore di guai, problemi a sfondo internazionale. È così? È così, non c'è dubbio, è uno scenario che preoccupa tutti, non a caso, ecco, interessante se posso mettere sul campo anche quest'ultima novità, ovvero sia il Kirghizistan che ha negato agli Stati Uniti l'uso della base di Manas, che è una cosa gravissima, ma nello stesso tempo interessante è l'apertura di Mosca, che vuole però gestire direttamente, quindi non più vedere e gestire dalle proprie repubbliche satelliti. Perché questo? Perché anche la Russia è molto preoccupata. In questi giorni si è celebrato il 20° anniversario del ritiro delle truppe russe, quindi c'è stata una grande riflessione sul perché le cose sono andate così. In quel modo. Ma oggi la Russia sente la stessa minaccia di prima. Credo che tutti oggi abbiano capito che la risposta non può essere solo militare, ma se posso dire proprio un'ultima cosa che io credo sia molto importante, va trovata anche nella soluzione delle tensioni regionali che ricadono sull'Afghanistan, perché i problemi dell'Afghanistan non sono solo interni. Ti ringrazio infinitamente Antonella De Ledda, vi ricordo il think tank per cui, a cui mette a servizio la propria conoscenza, si chiama Argo, e vi ricordo anche un sito che è www.argooriente.it per saperne di più. Ci vediamo presto, tornerai a trovarci magari. te metiste conmigo, pajarito, ¿no? Tú no sabes mucho de historia, tú no sabes mucho de nada, ¿sabes? Una gran ignorancia es la que tú tienes, eres un ignorante, Mr. Danger. Eres un ignorante, eres un burro, Mr. Danger. Insomma, prima i rapporti erano più o meno così. La voce che avete appena ascoltato è quella di Hugo Chavez, l'ignorante, il burro, l'asino, il donkey. Dopo glielo dice anche in inglese, dal punto di vista del presidente del Venezuela, era George W. Bush, e i rapporti, come si sapeva, erano, dire tesi è poco, insomma, eravamo appunto all'insulto e anche poi sotto traccia ad attività tutt'altro, insomma, che come dire, pacifiche, fra una rappresentanza e l'altra. Poi sono successe delle cose: prima di tutto c'è stato un cambio della guardia alla Casa Bianca, poi c'è stato appena pochi giorni or sono la vittoria al referendum costituzionale di Chavez, che gli presenta ora la possibilità, in sostanza, di essere eletto senza limiti, cioè a tutti gli effetti di restare sulla sua poltrona per tanti tanti anni da oggi in poi. Una vittoria, insomma, in cui i sì hanno vinto, ma non proprio stravinto, 54-46, ma che spiana la strada appunto a una rielezione indefinita del presidente. E allora si può parlare a tutti gli effetti di una possibile, si può usare il termine dittatura. Noi proviamo a chiederlo a Aldo Civico, che abbiamo già avuto ospite in trasmissione, se siete abituati qui, di Jefferson. Attualmente dirige il Center for International Conflict Resolution a New York, e quando ci abbiamo parlato faceva parte dello staff di Barack Obama, con un ruolo di competenza, di expertise per i rapporti tra gli Stati Uniti e la Colombia. Innanzitutto salutiamo Aldo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie. Allora, che è in contatto con noi da New York, hai sentito cosa dicevo in apertura? Insomma, è legittimo, no? Magari rifacendosi a quel precedente di Porfirio Diaz in Messico, che fece una strada più o meno simile, insomma, si fece spianare la possibilità di essere presidente praticamente a vita, e poi di fatto, insomma, comandò nel bene o nel male, in termini che da diversi punti di vista sono considerati dittatoriali. È quello che sta per succedere in Venezuela con Chavez, tanto per cominciare? Ma intanto io penso che sia corretto sottolineare che 10 punti di margine in questo referendum del 15 febbraio per Chavez, il suo movimento, i suoi sostenitori, è decisamente una vittoria significativa, perché questo, come tu hai anche accennato, permette a Chavez e al movimento bolivariano di consolidare il loro progetto. Quando Chavez è stato eletto per la prima volta nel 1998, lui aveva molto apertamente dichiarato che ci vorranno 20 anni per completare il progetto e la sua rivoluzione, che è poi l'implementazione di quello che lui chiama il socialismo bolivariano, la democrazia socialista. Lui aveva, se vi ricordate, la prima volta addirittura nel cambio della Costituzione voleva proporre 7 anni di termine, certo, riferendosi un po' alla Francia. Poi l'Assemblea costituente lo aveva convinto a rimanere a un limite di 6 anni. E quindi penso che questo referendum permetta a Chavez di continuare a lanciare la sua sfida, che è quella di tornare un'alternativa progressista al modello economico e politico del neoliberalismo e del capitalismo. Lui ha sempre avuto al suo interno, dall'inizio direi, una fortissima opposizione organizzata intorno a quella che è, se vogliamo, la elite tradizionale, l'oligarchia tradizionale del Venezuela, che ha in mano anche i mezzi di comunicazione, e quindi possiamo dire che fino al 2005 Chavez ha avuto anzi una certa difficoltà ad avanzare questi progetti, e quindi in fondo nella sua interpretazione sono solo pochi anni che lui ha incominciato ad implementare davvero il suo progetto. Quindi direi che non sono sorpreso dalla vittoria, non penso che sia un cambio o una radicalizzazione. C'è naturalmente un rischio è che il progetto bolivariano e del movimento trova in una persona, in un leader solamente, che è Chavez, la sua possibilità di continuare, di esistere. Naturalmente questo porta tutta una serie di rischi, compreso anche il rischio dell'eliminare il dissenso anche interno, non solamente diciamo, certo, il dialogo con l'opposizione, ma anche il dissenso interno che può esserci, che è salutare per qualsiasi tipo di movimento, di progetto politico. Oh, nel frattempo sono arrivate comunque delle reazioni, diciamo così, Aldo, di tono diverso. Insomma, l'ufficio del presidente Obama ha definito democratico il referendum che ha consentito a Chavez di candidarsi per un nuovo mandato, insomma un atteggiamento diciamo più morbido ormai da quegli scambi di insulti a cui ci avevano abituato Chavez e Bush, anche se poi da parte del portavoce del Dipartimento di Stato, che si chiama Gordon Duguid, sono arrivati segnalazioni di intimidazioni. Però nel complesso sembrano dire gli americani, i vertici americani, le elezioni sono state democratiche, lo stesso Duguid ha detto spetta comunque al popolo venezuelano dire poi se sia stato un bene o un male. Sono segnali di un ammorbidimento, a tuo parere, dell'atteggiamento americano nei confronti di Chavez? Ma sai, intanto gli insulti è bene dire che sono stati più da parte di Chavez, da parte di qualsiasi presidente, che non fa parte della cultura politica, certo. Qui negli Stati Uniti insultare altri leader, ma bisogna anche riconoscere che anche l'amministrazione di Bush nella sua ultima fase ha sempre reagito con moderazione e prudenza di fronte alle provocazioni lanciate di Chavez. Uh-huh. Ricordiamo che Chavez aveva espulso da Venezuela l'ambasciatore degli Stati Uniti e l'amministrazione di Bush aveva deciso di non reagire pubblicamente in maniera molto, molto forte. Quindi penso che anche la reazione attuale dell'amministrazione Obama sia in sintonia, in continuità da questo punto di vista con quello che già il Dipartimento di Stato aveva come strategia, e penso che sia una mossa molto intelligente, a parte il fatto di affermare che il referendum, e di confermare anche quello che è stato detto da osservatori internazionali, che il referendum si è svolto con quasi nessuna irregolarità, quindi un esercizio democratico legittimo dal punto di vista della forma, ma penso che soprattutto l'amministrazione Obama sia molto accorta nel non dare occasione a Chavez per utilizzare una retorica anti-imperialista e anti-Stati Uniti per i suoi propri vantaggi. Quindi penso che questa prudenza sia anche molto tattica e dettata dal fatto di non voler dare a Chavez troppa benzina e buttare benzina sul fuoco e dargli ancora più vantaggi. La verità è comunque che un cambiamento c'è stato di stile e di approccio alle relazioni internazionali, e questo effettivamente, almeno per il momento, rende difficile per un presidente come Chavez attaccare Obama. Obama ha fatto un discorso da leader di opposizione fino all'altro giorno, questo naturalmente può avere dei rischi, perché Chavez può magari scegliere e decidere di dirigere verso l'interno, verso le divisioni interne. Purtroppo Venezuela, come altri paesi in America Latina, sono molto divisi internamente, c'è poco dialogo tra le diverse forze politiche, e magari sceglierà di acutizzare questo tipo di divisione interna per i suoi propri vantaggi, anche se le sue dichiarazioni post referendum sono fino ad oggi abbastanza ecumeniche e abbastanza promettenti, diciamo. Va bene Aldo, ci dobbiamo salutare, mi dispiace perché volevamo approfondire, magari dici solo un parere, una parola, una valutazione rapida, volevamo approfondire questi aspetti, studiando insomma la questione per fare questa chiacchierata con te, sono venute fuori soprattutto dalla stampa locale queste insinuazioni di un crescente antisemitismo da parte di Chavez, che si sta trasformando anche un po' in un umore popolare nel Venezuela. Sono segnali che tu hai raccolto, di cui sei al corrente, che vanno presi seriamente in considerazione? Diciamo il fenomeno di questi fenomeni di antisemitismo sono successi in Venezuela, questo è vero, e sono sempre segnali molto preoccupanti. Certo. Ma è un po' ciò che il popolo ebraico soffre in giro per il mondo ogni volta che il governo di Israele usa in maniera molto forte la forza. Mm-hmm. Insomma, abbiamo avuto anche queste manifestazioni in Italia. In Italia, non, certo. Sono sempre, voglio dire, non voglio sminuire il significato, bisogna sempre essere molto allerti ogni volta che ci troviamo di fronte a atti di intolleranza verso l'altro, ma non li esagererei in Venezuela rispetto ad altri posti dove li abbiamo osservati. Tutto il mondo del paese. Va bene, molte grazie a Aldo Civico, ci ha messo al corrente delle valutazioni attorno a questa possibilità che si ha per Hugo Chavez di occupare il potere in Venezuela per un lasso di tempo molto lungo. Vi ricordo, Aldo Civico dirige il Center for International Conflict Resolution nella bella città di New York. No debes olvidar, besar siempre es besar, igual que suspirar. Y lo fundamental será que el tiempo va. Amantes como tú dirán que eres mi luz. También sucederá. Piovono i messaggi su Chavez via SMS, ne sono arrivati tantissimi, tutti preoccupati, tutti critici, tutti preoccupati. Ma in Venezuela quanta libertà c'è? Chiede Davide. Anche Hitler è stato eletto, oppure secondo voi basta che si usino mezzi democratici e tutto è ok? Anche Hitler, e siamo a due, venne eletto democraticamente, dice Claudia. Anche Berlusconi viene chiamato in causa, anche Berlusconi vuole campare fino a 120 anni per governare per il bene della nazione, scrive un ascoltatore. E poi la stiamo prendendo troppo alla leggera, come sempre accade quando comincia una dittatura di sinistra. E poi il maestro del loco, così è chiamato Chavez in Venezuela, è Fidel Castro. Il referendum era fallito, Gilberto questo da Parma, il referendum era fallito una prima volta, i nomi di chi aveva votato sono finiti su internet. Moltissimi messaggi. Però noi nello spazio Facebook siamo ancora purtroppo sintonizzati non su Chavez, magari ci penseremo, ma su ieri, cioè su quel paragone Obama-Veltroni al quale torniamo tra un momento, ma soprattutto a quell'incontro che ormai definirei quasi scontro Pelosi-Ratzinger, andato non proprio a buon fine. L'abbiamo commentato ieri con Filippo Di Giacomo, ma sentiamo poi i nostri ascoltatori. Milano. Sì, perché siamo tornati sul luogo del delitto, abbiamo ripreso un po' di messaggi, alcuni arrivati ieri ancora prima dell'incontro, peraltro fulmineo, un quarto d'ora neanche, tra Nancy Pelosi e Benedetto XVI, e qualcuno invece che ci ha ragionato anche a bocce ferme dopo l'incontro. Per esempio c'è Mukeba che dice: è l'inizio di un confronto tra due grandi personalità opposte che si rispettano, restando però ognuna della propria opinione. Poi c'è Roberto, molto diffidente, che dice: se ci sarà cordialità, quindi scriveva prima dell'incontro, sarà solo per il protocollo. Non c'è stato niente cordialità, niente cordialità. Zero cordialità. E Fabrizio invece ragiona post factum, mm-hmm, e dice: Benedetto XVI voleva umiliarla e lo ha fatto. In Italia, se un presidente della Camera fosse stato trattato così, si sarebbe dimesso dopo due minuti. Io ho dei grossi dubbi su questo. Mm-hmm. Per fortuna loro negli Stati Uniti insomma riescono a distinguere tra legittime posizioni di una confessione religiosa ed ingerenza politica. La prossima volta eviteranno semplicemente di andarci a parlare. Mm. Plausibile, forse è un'analisi plausibile. Allora invece ancora su Veltroni Obama, il paragone, il giorno dopo vi abbiamo chiesto un second thought, no? Un secondo pensiero sulla questione, perché insomma non è stata da poco comunque un ritiro dicendo ho sbagliato, il capo dell'opposizione si ritira dicendo ho sbagliato. Fate un po' mente locale, quanti lo fanno, quante volte è capitato, ma insomma comunque un certo clamore nella notizia a parer mio c'è, al di là dei giudizi sull'operato, insomma, ma parlo del comportamento umano barra professionale. Beppe dice: Obama ci ha messo la faccia e tutto il resto in due anni di primarie, lacrime e sangue contro una candidata che sembrava imbattibile, poi ha dovuto convincere il paese. Vedete qualcuno a queste parti in grado di fare tutto questo? Argomento inoppugnabile. Francesco: secondo me gli Obama nostrani non hanno capito che in Italia abbiamo un regime. Mauro: Obama è circondato da collaboratori che credono in lui e il potere è nelle sue mani, ben altro da quello che ha avuto Veltroni. Soprattutto gli americani di sinistra non sono gli italiani. Paolo dice: devo riconoscere che quello di Walter è stato non già un obamismo ma un onanismo. Aia. Roberto: non c'è nessuno che abbia saputo creare una rete come quella di Obama. Federico: più che di obamismo, quello italiano mi sembra onanismo, e siamo a due. Piace molto questo gioco, aia, di parole. Aia. E Gustavo, per concludere, non mischiamo diavolo e acqua santa. Paragonare Veltroni a Obama farebbe venire l'orticaria anche al più integralista dei repubblicani americani. Severi fino alla fine, questo è quanto ve ne volevamo rendere conto. Adesso invece andiamo alle notizie di oggi, l'ultima ora. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. Punto sensibile Israele, dico bene? Sì, Israele e Medio Oriente in generale, perché l'aria è caldissima, è trascorsa poco più di una settimana dal voto, dalle elezioni che sono finite con grande incertezza, non si sa ancora bene chi abbia vinto poi nei fatti, e in questo momento è in corso la difficile opera di Peres, del presidente israeliano, di colloqui e trattative per arrivare a formare un governo. Però io partirei da una notizia laterale, che poi forse così laterale non è, perché il senatore democratico John Kerry, vecchia conoscenza, avversario di Bush nelle elezioni presidenziali del 2004, oggi ha compiuto una visita che le agenzie definiscono senza precedenti nella striscia di Gaza, alla guida di una delegazione americana molto ristretta, composta anche da due membri della Camera, che sono Brian Baird e Kate Allison, che è l'unico deputato musulmano americano. Questa è l'estrema sinistra della Camera. Quindi insomma è una visita importante. Kerry non ha incontrato esponenti di Hamas, si precisa nelle agenzie, mentre prima di andare a Gaza ha incontrato anche Zipi Livni e assieme a lei ha fatto un giro nella città di Sderot, che poi la città al sud di Israele attaccata praticamente al confine con Gaza, che è spesso purtroppo bersaglio dei razzi palestinesi. Invece vi parlo rapidamente di un'altra America che non è in crisi, ma direi è in crisissima. Se ne parla pochissimo, ma noi ne vogliamo parlare settimana prossima, lo faremo con almeno un approfondimento. Questa America in crisissima si chiama poi alla fine California, alla faccia della terra dei sogni, no? Il Senato della California, dopo una notte di contrattazioni, sarebbe riuscito a dar via alla manovra antibancarotta. Lo Stato stava per chiudere, no? Chiudere proprio le porte, mettere i sigilli. Quanti soldi? Dunque, per portare la americana a chiudere un buco di bilancio che nel 2010 è previsto di 42 miliardi di dollari. California, pensate che in Italia si pensa di metterne lì tre. La legge passa ora all'esame dell'Assemblea, l'altra Camera dello Stato. La difficoltà a varare la manovra aveva spinto Schwarzenegger a prospettare un licenziamento a fine giugno di 20.000 dipendenti statali, direi 20.000 uno, perché in mezzo c'era pure lui, a cui ormai non restava che quello, rimettere il mandato. La situazione critica del più vasto Stato americano ha spinto Obama a prevedere tra l'altro interventi speciali per la California, uno speciale programma di stimolo all'economia con 400.000 posti di lavoro nello Stato di Schwarzenegger. Non mi sembrano numeri piccoli, chissà come si fa, io vorrei capire come si fa. 400.000 posti di lavoro, vai. Io invece, come detto, resto sintonizzato sul Medio Oriente, perché da ieri il presidente israeliano Simon Peres ha in mano i dati ufficiali delle elezioni della settimana scorsa e ha cominciato il giro di consultazioni. Non so se si dica salita al colle anche da quelle parti, ma funziona più o meno allo stesso modo. Cioè, colli importanti ce ne sono alcuni. Ogni leader dei partiti che hanno partecipato alle elezioni vanno in processione da Peres, dicono la loro, poi Peres farà i suoi ragionamenti. Questa mattina, cosa molto importante, Peres ha incontrato Avigdor Lieberman, forse il vero vincitore tra i due litiganti, Livni e Netanyahu, nelle elezioni della settimana scorsa, il leader di Israel Beitenu, il partito di estrema destra. E Lieberman ha detto una cosa molto importante, perché ha detto sì, come l'uomo del monte, a un governo diretto dalla destra, quindi dal Likud, da Benjamin Netanyahu, però questo sì lo ha condizionato ad una coalizione a tre, perché vuole dentro non solo il Likud ma anche Kadima, no? Il partito che in realtà ha vinto le elezioni guidato dalla Livni, quindi vuole la grande coalizione. Lieberman vuole veramente fare il vincitore di questa disputa, perché ha detto Netanyahu deve abituarsi all'idea che il suo non potrà essere un governo ristretto, e la Livni deve invece abituarsi all'idea che non vi sarà un'alternanza di governo. Abbiamo fatto un bel giretto oggi, no? Siamo stati in Afghanistan, siamo stati in Venezuela, in Israele, naturalmente sempre tenendo un piede a Washington. Dimmi. Aggiungo solo rapidamente che nel frattempo la piccola comunità cattolica di Gaza ha invitato ufficialmente Benedetto XVI, che farà a maggio il viaggio in Terra Santa in Israele, e tra l'altro pare che Hamas abbia dato il suo consenso, lo ha assicurato il parroco di Gaza City, padre Manuel Mussalam. Vediamo se va. Jefferson Ming, io sono Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Fabio Cantadori, la mail jefferson2@radio24.it, soprattutto i nostri siti Facebook, iscrivetevi a redazione Jefferson 2 per parlare, dialogare, partecipare con noi al programma, o iscrivetevi a Jefferson 2, Radio 24, Express Yourself, per partecipare ai nostri focus, ai nostri dibattiti, a quelli che insomma chiamiamo appunto Express Yourself. Dite la vostra, la trasmissione la trovate in podcast tra poco, tra qualche tempo, poi la trovate sul sito della radio in MP3, poi in replica a mezzanotte, ma soprattutto va in diretta domani alle 4 qui su Radio 24.